Fondatore di questa scuola fu un ricco ecclesiastico che viveva nei pressi di Kirby Lonsdale, il reverendo William Carus Wilson. Era un uomo energico che non badava a fatiche pur di raggiungere lo scopo che si prefiggeva, disposto a sacrificarvi qualsiasi cosa all'infuori della propria autorità. Si rese conto che per gli ecclesiastici dalle entrate modeste far fronte alle spese richieste dagli studi dei figli e delle figlie costituiva un impegno estremamente difficile. Perciò pensò e organizzò una sottoscrizione annua con cui arrotondare la retta di 14 sterline che non era sufficiente a garantire una buona educazione. La somma corrisposta dalla famiglia era appena sufficiente a pagare il mantenimento dell'educanda. Le altre spese venivano coperte dal gettito della sottoscrizione. Furono nominati 12 fiduciari, per segretario e tesoriere venne eletto Mr. Wilson, che, essendo naturalmente anche fiduciario, ebbe così tutta la direzione della scuola in mano. Fu naturale scegliere lui, visto che era l'unico la cui casa si trovava nelle immediate vicinanze del nascente istituto. Così il successo o il fallimento della scuola di Cowan Bridge venne a dipendere in gran parte dalla sua prudenza e dal suo buonsenso, e l'andamento ne fu per molti anni il principale scopo della sua vita, assorbendone tutto l'interesse. Però, da quanto si vide, ignorava il più importante fattore da cui dipende una buona amministrazione, ovvero la scelta di persone qualificate da mettere a capo di ogni singolo reparto, lasciando loro la piena responsabilità per poi giudicarle in base ai risultati ottenuti, evitando una perpetua e poco giudiziosa interferenza in ogni particolare. Il bene fatto da Mr. Wilson con la sua costante e instancabile sovrintendenza è stato così grande che mi è impossibile non provar pena al pensiero che nella sua tarda età gli errori involontari che certamente commise gli siano stati rinfacciati dall'opinione pubblica, dopo che con tutta la forza del suo grande genio Miss Bronte li mise in luce. Mentre scrivo, ho sotto gli occhi il testo delle ultime parole che egli pronunciò quando, nel 1850, abdicò dalla carica di segretario. Accenna alla salute declinante che induce al ritiro il sorvegliante che giorno dopo giorno aveva amorosamente vigilato sulla scuola con sincero e responsabile interesse. E più in là aggiunge che abdicando ringrazio Dio per tutto quanto egli sia compiaciuto di operare per mezzo di uno strumento di cui lui riconosce e deplora sentitamente le deficienze e le pecche. Cowan's Bridge è costituito da un gruppo di 6 o 7 casette radunate alle due estremità di un ponte sul quale la strada maestra che collega Leeds con Kendal attraversa un piccolo corso d'acqua, il Lech. Oggigiorno questa strada è poco frequentata, ma in passato, quando dai distretti manifatturieri del West Riding assidui compratori salivano a nord per acquistare la lana degli allevatori del Westmoreland e del Cumberland, aveva indubbiamente conosciuto un intenso traffico. E forse allora la piccola frazione di Cowan's Bridge aveva un aspetto più prospero di quello attuale. Gode di una posizione attraente nel punto dove la ripida china rocciosa dalla quale scende il letto del Lech si adagia e si espande nella pianura. Lungo il corso del fiumiciattolo crescono ontani, salici e cespugli di nocciuoli. La corrente a intervalli è interrotta da blocchi di roccia grigia. L'acqua scorre su un letto di grandi ciottoli bianchi e levigati che l'impeto del flusso nella sua corsa smuove e solleva e in alcuni punti ammucchia a mo' di muro. Lungo le sponde del piccolo, poco profondo, scintillante, vigoroso Lech vi sono lunghe praterie dove cresce la fitta, bella erba rasa tipica delle alte terre. E, benché Cowan's Bridge si trovi in una zona pianeggiante, da quella piana parte un susseguirsi di lunghe, ripidissime chine che giungono insieme con il Lech nella valle del Liun. Mi è difficile capire come la scuola situata in quella posizione possa essere stata tanto insalubre. Quando la visitai l'estate scorsa, il tepore dell'aria era piacevolissimo e il profumo del timo vi aleggiava. Ma oggigiorno sappiamo che il sito di un edificio destinato ad albergare numerose persone deve essere scelto con maggior cura di quello idoneo a un'abitazione privata, visto quanto è facile che le malattie, sia infettive che non, si propaghino là dove molte persone vivono a stretto contatto. Rimane ancora in piedi una casa che fu parte di quelle occupate dalla scuola e una lunga e bassa casa di campagna dalle finestre a terrazzino chiuso che ora è divisa in due abitazioni distinte. Sorge facendo fronte al Lek, separata da uno spazio profondo circa 70 yard, che in passato fu il giardino della scuola. Ad angolo retto, tra questa costruzione e quanto ancora rimane dell'edificio scolastico, sorgeva un tempo una fabbrica di rocchetti di legno ottenuti dagli ontani che crescono a profusione nella zona circostante. Mr. Wilson adattò la fabbrica al suo scopo, ricavando aule scolastiche al pian terreno e dormitori al primo piano. L'odierna casa di campagna fu destinata alle stanze delle insegnanti, al refettorio e alle cucine, oltre che ad alcune camere da letto più piccole. Entrando nell'edificio principale, ne trovai una parte, quella più vicina alla strada maestra, trasformata in povera osteria, offerta in affitto, benché sembrasse completamente abbandonata. Era difficile immaginare l'aspetto di insieme quando ogni cosa era mantenuta in perfetto ordine. I vetri rotti, sostituiti da nitide impannate, il rivestimento di calce e cemento, ora screpolato e scolorito, bianco e intatto. L'altra ala forma un'abitazione con i bassi soffitti e i pavimenti di pietra che usavano 100 anni fa. Le finestre si spalancano con difficoltà e il corridoio del piano superiore, che conduce alle camere da letto, è stretto e tortuoso. Gli odori devono stagnare in quella casa e l'umidità regnarvi. Ma le regole igieniche erano tenute in pochissimo conto 30 anni fa, mentre era cosa molto importante trovare una dimora spaziosa in prossimità della strada maestra e a poca distanza dall'abitazione di Mr. Wilson, promotore del progettato collegio. L'istituto da lui ideato era altamente necessario. Numerosi ecclesiastici malpagati salutarono il progetto con gioia e registrarono con slancio le figlie nel nascente educandato affinché vi fossero ricevute fin dal primo giorno. Mr. Wilson, compiaciuto dall'impazienza con cui era attesa l'inaugurazione della sua scuola, l'aprì, a quanto mi dicono, avendo in mano meno di 100 sterline e vi accolse da 70 a 80 fanciulle. Egli era consapevole della responsabilità che pesava interamente su di lui. La retta pagata dalle famiglie era appena sufficiente per il vitto e l'alloggio. Le sottoscrizioni non giungevano in gran quantità a sovvenzionare un progetto ancora tutto da mettere in atto, perciò nell'andamento domestico era necessaria la più stretta economia. Decise di imporla con frequenti ispezioni personali e sembra che la sua spiccata inclinazione all'autorità l'abbia indotto a interferire nei pur minimi particolari, suscitando inevitabile e dannosa irritazione. Tuttavia, benché vi fosse economia nella spesa, per il trattamento non sembra vi sia mai stata parsimonia. La carne, la farina e il latte erano acquistati all'ingrosso, ma erano di buonissima qualità. La pianificazione della dieta alimentare, di cui ho visto il manoscritto, non è né cattiva né insalubre e nell'insieme non manca di varietà. Pappa di fiocchi d'avena per prima colazione, una fetta di torta d'avena per quelle che richiedevano uno spuntino a mezzogiorno, bollito arrosto di bue o di castrato, sformato di patate e semplici budini caserecci a pranzo. Alle 5 pane e latte per le più piccine e un semplice pezzo di pane per quelle più grandicelle. Questa era l'unica volta nella giornata in cui il cibo veniva limitato. A quelle che restavano alzate fino a tardi veniva dato uno spuntino dello stesso genere. Mr. Wilson ordinava le provviste personalmente e le esigeva di ottima qualità, ma la cuoca, che godeva della sua piena fiducia e della quale per lungo tempo nessuno osò lamentarsi, era trascurata, sudicia e sprecona. A certuni la pappa d'avena ripugna ed è perciò controindicata anche quando viene preparata con cura. A Cowan's Bridge troppo spesso non solo veniva mandata a tavola bruciata, ma anche era frequente incontrarvi ripugnanti frammenti di sostanze strane. La carne, che avrebbe dovuto essere salata con cura per conservarla finché fosse cucinata, spesso incominciava a corrompersi perché trascurata, e alcune giovani che furono compagne di scuola della Bronte mi dicono che durante il regno della cuoca di cui sto parlando, la casa era pervasa di mattina, di pomeriggio, di notte, dall'odore di grasso rancido che emanava dal forno in cui il cibo veniva cotto. La stessa trascuratezza si riscontrava nella preparazione dei budini. Uno di quelli previsti era di riso bollito nell'acqua e veniva servito con una salsa di melassa e zucchero, ma spesso era immangiabile perché l'acqua era stata attinta dalla vasca dell'acqua piovana, fortemente impregnata della polvere del tetto, dalla quale era gocciolata nella vecchia botte, il cui legno aggiungeva il proprio sapore all'acqua piovana originale. Anche il latte troppe volte era binghi, intraducibile espressione locale per indicare un genere di alterazione assai peggiore dell'acidità, e ciò induce a pensare che ne sia causa la mancanza di pulizia dei recipienti piuttosto che l'alta temperatura dell'ambiente. Di sabato veniva in tavola una specie di sformato fatto con patate e con qualsiasi tipo di avanzo racimolato durante la settimana. I resti di carne tirati fuori da una sudicia e disordinata dispensa non potevano certamente essere appetitosi, e questa pietanza era certamente la più detestata fra tutte quelle che venivano messe in tavola in quei giorni della scuola di Cowan's Bridge. È facile immaginare quanto debba essere stato ripugnante questo cibo per delle bambine di poco appetito, abituate a vivande forse assai semplici, ma preparate con scrupolosa pulizia che le rendeva allettanti e sane. Le piccole Bronte, per più di un pasto, non toccarono cibo, pur essendo affamate. Erano giunte debilitate da un recente morbillo complicato da pertosse, si erano a malapena rimesse tanto che nel luglio del 1824 vi era stata una discussione tra le autorità scolastiche circa l'opportunità o meno di accettare le due più grandi, Maria ed Elizabeth. Mr. Bronte ritornò nel settembre dello stesso anno accompagnando Charlotte ed Emily e chiedendo che fossero ammesse a loro volta. Sembra strano che Mr. Wilson non sia stato informato dalle insegnanti circa il genere di cibo che veniva mandato in tavola, ma dobbiamo ricordare che la cuoca da lungo tempo era conosciuta dalla famiglia Wilson, mentre le maestre erano state assunte per dedicarsi a un lavoro assolutamente diverso, quello di educare e di insegnare. Era stato detto loro chiaramente che solo questo le riguardava. L'acquisto e l'uso delle provviste erano esclusiva spettanza di Mr. Wilson e della cuoca. Perciò furono naturalmente restie ad esporgli lagnanze in proposito. Dopo essere stato finalmente messo al corrente, rispose che l'educazione delle ragazze doveva insegnare loro a dare importanza a cose più elevate che non al modo elegante per stuzzicare l'appetito. È evidentemente ignaro che un'abituale ripugnanza con conseguente rifiuto del cibo inevitabilmente mina la salute, tenne una lezione su quanto sia peccaminoso il dare troppa importanza alla soddisfazione della carne. Un altro pericolo minacciava la salute di tutte le ragazze, il sentiero che conduceva da Cowan's Bridge alla chiesa di Tunstall, dove predicava Mr. Wilson e dove tutte si recavano di domenica. È lungo più di 2 miglia e serpeggia lungo salite e discese in aperta campagna. Nell'estate la passeggiata era piacevole e divertente, ma col freddo pungente dell'inverno costituiva una dura prova per quelle ragazze dal sangue impoverito, perché mezze morte di fame. La chiesa non era riscaldata, dato che mancava un impianto appropriato. L'edificio sorge in mezzo ai campi, la nebbia umida deve essersi raccolta all'esterno, insinuandosi dalle fessure delle finestre. Le ragazze portavano con sé una refezione fredda che consumavano nell'intervallo tra la funzione della mattina e quella del pomeriggio, in un ambiente che apriva con una galleria sopra l'ingresso principale. Il programma di questa giornata festiva provava le fanciulle delicate, specialmente quelle che erano depresse e soffrivano di nostalgia, come deve essere stato il caso della povera Maria Bronte. La salute, già cattiva, peggiorava. La vecchia tosse, postumo della pertosse, perdurava ostinatamente. Maria era di gran lunga superiore come levatura mentale a tutte le sue compagne di giochi e perciò si sentiva sola in mezzo a loro. Involontariamente aveva atteggiamenti così indisponenti che era in continua disgrazia presso le insegnanti ed era diventata oggetto di spietata antipatia per una di esse, descritta col nome di Miss Scatcherd in Jane Eyre, il cui vero nome sarò abbastanza pietosa da non rivelare. Non ho bisogno di dire che Helen Burns è l'esatto ritratto di Maria Bronte, quale la straordinaria bravura di Charlotte ha saputo rendere, e quando la incontrai mi resi conto che il suo cuore fino all'ultimo ardeva ancora di inutile indignazione al ricordo dell'astiosa crudeltà di quella donna nei riguardi della mite e paziente sorella moribonda. Non una sola parola nelle scene che in Jane Eyre descrivono i contatti della maestra con l'allieva si allontana dalla verità. Le educande, che furono compagne della Bronte, hanno capito subito chi aveva scritto quel libro, tanta è l'esattezza con cui le sofferenze di Helen Burns vi sono descritte. Hanno anche riconosciuto Miss Temple dalla sua calma dignità, la sua benevolenza, liete del tributo reso al merito di una persona che tutte quelle che l'hanno conosciuta onorano. E quando Miss Scatcherd vi fu messa moralmente alla gogna, riconobbero in chi aveva scritto Jane Eyre, la sorella che forse inconsciamente vendicava la vittima. Una di queste ex compagne di Charlotte e Maria Bronte mi diede la seguente testimonianza. Il dormitorio di Maria era una lunga stanza con due file di lettini addossati alle pareti. In fondo a questo dormitorio si trovava la piccola camera da letto di Miss Scatcherd. Il lettino di Maria era il più vicino alla porta che vi metteva. Una mattina la povera Maria, che recentemente era stata indisposta e aveva un'ustione non ancora guarita sul fianco dove le avevano applicato un vescicante, ai rintocchi della campana che dava la sveglia, disse gemendo che si sentiva male, molto male, e che desiderava tanto di rimanere a letto. Alcune delle ragazze la incoraggiarono a non alzarsi e proposero di andare a esporre il caso alla sovrintendente Miss Temple, ma Miss Scatcherd era vicina e non potevano arrischiare di suscitarne la collera prima di aver ottenuto il gentile, comprensivo intervento di Miss Temple. Perciò, tremando dal freddo, la piccola ammalata incominciò a vestirsi e, senza scendere dal letto, prese a infilarsi lentamente le lunghe calze di maglia nera sulle gambette magre e pallide. Mentre parlava, la mia informatrice mi dava l'impressione di rivivere la scena arrossendo dall'indignazione. Proprio in quel momento Miss Scatcherd uscì dalla sua camera e, senza chiedere una parola di spiegazione alla ragazzina sofferente e spaventata, l'afferrò per un braccio proprio dalla parte dove il vescicatore era stato applicato e con un vigoroso strattone la sbatté nel bel mezzo della stanza, censurando nel frattempo le sue abitudini al disordine e alla sudiceria. Poi la piantò in asso. Maria accettò ogni cosa senza dir verbo, parlò solamente per raccomandare la calma alle compagne più indignate. A passi lenti e incerti, sostando ogni tanto per riprendere fiato, giunse finalmente da basso e fu castigata perché era in ritardo. Si può facilmente immaginare quanto il ricordo di un simile fatto bruciasse nella memoria di Charlotte. Mi meraviglio solamente che non abbia protestato quando, dopo la morte di Maria e di Elizabeth, il padre decise di far tornare lei ed Emily a Cowansbridge. Ma frequentemente i bambini non sanno calcolare quanto peso possono avere le loro semplici rivelazioni per modificare l'opinione che coloro che li amano nutrono circa le persone a cui li affidano perché vengano educate. Inoltre, con l'intelligenza vigorosa di cui era dotata, nonostante la giovanissima età, Charlotte capiva quanto fosse importante ottenere una buona istruzione, capace di darle quegli strumenti che aveva la capacità e fin da allora la ferma volontà di adoperare in avvenire, e sapeva benissimo che quanto Cowansbridge offriva in proposito era il meglio che suo padre potesse procurarle. Ancora prima della morte di Maria Bronte, nella primavera del 1825, nell'istituto si manifestò l'epidemia di febbre di cui si legge in Jane Eyre. I primi sintomi allarmarono molto Mr. Wilson. La fiducia che aveva in se stesso ne fu scossa. Non riusciva a capire che genere di malattia fosse quella che intorpidiva e appesantiva le ragazze, tanto da renderle incapaci di reagire positivamente alle rimostranze e da impedir loro di rispondere alle esortazioni spirituali con cui egli tentava di strapparle all'opaco stupore, alla semi-inconscia indifferenza a cui si abbandonavano a poco. Si recò da una brava donna dal cuore materno, che aveva avuto a che fare con la scuola in qualità di lavandaia, a quanto credo, e le chiese di recarvisi con lui e dirgli cosa mai le educande potevano avere. Lei si preparò e partirono insieme nel calessino in cui egli era giunto. Quando entrò nella sala da studio, stupì alla vista di una quindicina di ragazze sparse qua e là, alcune col capo dolorante appoggiato ai tavolini, altre addirittura stese sul pavimento, tutte con sguardo atono, rosse in viso, indifferenti e spossate, indolenzite in ogni parte del corpo. Dall'odore speciale che la colpì, disse di essere certa che le ragazze erano colpite da quella febbre. Ne informò Mr. Wilson e dichiarò che non si poteva trattenere per tema di trasmettere l'infezione ai suoi figlioli. Egli, un po' facendo uso d'autorità, un po' supplicando, le chiese di rimanere per curare le ammalate e per tagliar corto, salì nel suo calesse e se ne partì, mentre quella insisteva nel dire che doveva tornarsene a casa per accudire alle faccende domestiche, dato che non aveva chiesto a nessuno di sostituirla. Tuttavia, essendo stata piantata in asso in quel modo poco cerimonioso, decise di far buon viso a cattiva sorte e si dimostrò ottima infermiera in quella difficilissima situazione. Mr. Wilson, senza badare a spese, fornì tutto quanto veniva ordinato dai migliori dottori del luogo, subito convocati. Richiese un consulto al cognato, che era la maggiore autorità medica in Kirby, benché da un po' di tempo non fosse in buoni rapporti con lui. E fu questo medico che assaggiò e condannò il vitto quotidiano servito alle ragazze, poiché ancor prima di parlare istintivamente sputò il boccone che gli veniva offerto come campione. Circa 40 delle ragazze soffrirono di quella febbre, ma nessuna di loro morì a Cowan's Bridge, benché una di loro morisse a casa, non riuscendo a riprendersi dalle condizioni di salute in cui vi era tornata. Nessuna delle Bronte prese la febbre, ma le stesse cause che intaccarono la salute di molte loro compagne colpite dal tifo influirono, più lentamente ma non meno sicuramente, sulla loro costituzione. La cagione principale di tutto era stata il cibo. Alla cattiva amministrazione della cuoca spettava il biasimo maggiore e la venne licenziata. La donna che era stata costretta a diventare controvoglia infermiera capo la sostituì come direttrice di casa e da quel momento il cibo fu preparato in modo tale che nessuna poté ragionevolmente lamentarsene più. Naturalmente non ci si poteva aspettare che in un istituto di nuova creazione, in cui si associavano il convitto e l'insegnamento per quasi 100 persone, tutto corresse liscio fin dal principio, e va ricordato che quanto è stato detto più sopra avvenne nei primi 2 anni. Ma sembra che Mr. Wilson abbia avuto l'infausto dono di irritare perfino le persone verso le quali nutriva le migliori intenzioni e per le quali sacrificava tempo e denaro, con quella sua incapacità di rispettare la libertà di opinione e di azione altrui. Inoltre conosceva così poco la natura umana da pensare che, ricordando continuamente alle educande la loro dipendenza derivata dal fatto che ricevevano l'istruzione grazie alla carità altrui, le avrebbe rese ancora più sottomesse e umili. Alcune delle più sensibili risentirono amaramente di questo trattamento e, invece di essere grate, come avrebbero dovuto, per il sostanziale beneficio che ricevevano, il loro orgoglio, lungi dall'essere abbattuto, si rafforzò sotto la sferza dell'umiliazione. Le impressioni penose penetrano profondamente nel cuore dei bambini dai sentimenti delicati e dalla salute malferma. Quello che una costituzione vigorosa deve soffrire momentaneamente viene poi dimenticato, invece chi è malaticcia lo rimugina istintivamente e lo ricorda a lungo, forse senza risentimento, ma portando per tutta la vita il marchio della sofferenza profondamente impresso. Le immagini, le idee, l'interpretazione delle varie indoli stampate nella mente di Charlotte, bambina di 8 anni, dovevano manifestarsi in parole di fuoco un quarto di secolo più tardi. Ella vide solamente un lato, quello sfavorevole del carattere di Mr. Wilson. Ma molti fra quelli che lo conobbero bene mi assicurarono che, benché quanto vi era di più antipatico nella sua indole, l'orgoglio spirituale, l'amore del potere, l'incomprensione della natura umana, insieme con mancanza di tenerezza che ne deriva, siano riferiti con indiscutibile fedeltà, è tuttavia deplorevole che l'insistenza sui difetti abbia, di fatto, cancellato qualsiasi accenno a tutto quanto vi era in lui di effettivamente nobile e coscienzioso. Il ricordo delle 4 sorelle Bronte nelle ex educande che furono loro compagne in quei mesi non è molto vivo. I loro cuori indomiti, le intelligenze poderose, rimasero nascoste sotto la forzata regolarità del comportamento e della parola, esattamente come i loro visi erano stati nascosti dal padre dietro la rigida maschera inespressiva. Maria era di salute delicata, insolitamente pensosa e intelligente per la sua età, mite e disordinata. Dei frequenti rimproveri a motivo di questo difetto, delle sue sofferenze sopportate con tanta pazienza, ho già parlato. L'unico rapido sguardo che ci ha consentito gettare su Elizabeth lungo i pochi anni della sua breve vita è possibile grazie a una lettera scrittami da Miss Temple, nome sotto cui con ogni probabilità è indicata Miss Anne Evans, che fu la prima sovrintendente della scuola per figlie di ecclesiastici. Elizabeth, la seconda sorella, è l'unica che io ricordi chiaramente, grazie al suo incorrere in un incidente piuttosto allarmante, per cui la tenni nella mia camera per parecchi giorni, non solo per garantirle maggiore tranquillità, ma anche per poterla tenere d'occhio personalmente. Si era fatta un brutto taglio alla testa, ma sopportò la sofferenza che le cagionava con pazienza esemplare e questo le meritò tutta la mia stima. Delle ultime due, ma erano proprio due, non ricordo quasi nulla all'infuori del fatto che una bimbetta sotto i 5 anni era una cara creaturina coccolata da tutta la scuola. Si tratta certamente di Emily. Charlotte era considerata la più chiacchierina delle quattro sorelle, una bambina brillante, vivace. Sua grande amica era una certa Melanie Hayne, il cui nome ricavo da come lo scrive Mr. Bronte, che veniva dalle Indie occidentali. Il fratello, che pagava la retta, non poteva addossarsi la spesa di farle studiare la musica, per cui aveva una spiccata tendenza. In quanto al resto, non brillava in nessun campo. Era una ragazzina qualsiasi, famelica e di buon carattere, maggiore di Charlotte e sempre pronta a proteggerla dalle piccole tirannie, impedendo che le ragazze più grandi approfittassero di lei. Charlotte ne serbò sempre un grato e affettuoso ricordo. Ho usato la parola brillante parlando di Charlotte. Sospetto che quell'anno, 1825, sia stato l'ultimo che si possa definire felice. In quella primavera, Maria peggiorò tanto rapidamente che Mr. Bronte fu mandato a chiamare. Prima di quel momento non si era reso conto di quanto fosse ammalata la figlia e le condizioni in cui la trovò gli causarono un terribile colpo. La riportò a casa sulla diligenza di Leeds. Le ragazze si affollarono lungo la strada per seguirla con gli occhi al di là del ponte, oltre le casette di campagna, finché scomparve alla loro vista per sempre. Morì pochissimi giorni dopo il suo ritorno a casa. Forse la notizia della sua morte, giunta all'improvviso nella cerchia di cui appena poche settimane prima ella aveva fatto parte con silenziosa pazienza, fece sì che si prendessero in considerazione i sintomi che affliggevano anche Elizabeth. Anche questi furono riconosciuti tipici della tubercolosi e la fu rimandata a casa, accompagnata da una dipendente di fiducia della scuola, e anche lei morì nei primi giorni dell'estate di quello stesso anno. Charlotte si trovò così investita della responsabilità di sorella maggiore in una famiglia dove la madre mancava. Ricordava quanto ansiosamente la sua cara sorella Maria si era adoperata con grave serietà per aiutarli, consigliarli. E i doveri che ora ricadevano su di lei sembravano esserle lasciati in eredità dalla piccola mite sofferente da poco defunta. Tanto Charlotte quanto Emily ritornarono a scuola alla fine delle vacanze di mezza estate di quell'anno fatale, ma prima che iniziasse l'inverno, la direzione giudicò opportuno consigliare al padre di ritirarle, visto che la posizione dell'edificio scolastico in un luogo umido quale era Cowan's Bridge non sembrava adatto alle loro condizioni di salute.